Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Luigino Bruni. Buonasera. Luigino Bruni è qui con noi questa sera per parlare di due libri. Il primo lo ha scritto insieme a Stefano Zamagni ed è L'economia civile, edito dal Mulino. Il secondo lo ha scritto da solo ed è Le imprese del patriarca, mercato, denaro e relazioni umane nel libro della Genesi. Iniziamo dall'economia civile. Luigino Bruni con Stefano Zamagni ha già scritto altri libri su questo tema. Ora in questo libro, che è nella collana Farsi un'idea, raccoglie, sintetizza il tema appunto dell'economia civile. Allora spieghiamo un po' che cos'è questa economia civile. Luigino Bruni. Allora, l'economia civile innanzitutto è una tradizione di pensiero economico italiano che ha la sua età dell'oro, diciamo, già dal Medioevo. Noi partiamo dal monachesimo, dall'umanesimo civile, da tutta la cultura cittadina, artigiana, perché poi è quella che ha prodotto il Made in Italy, che oggi ci sta salvando, certo, come economia. Che ha avuto poi nel Settecento napoletano, milanese, un periodo molto importante con autori come Genovesi, ma anche, se vogliamo, anche lo stesso Beccaria. Cioè l'idea che c'è un modo italiano di fare pensiero economico e prassi economica, che stiamo dimenticando perché c'è una tale invasione di pensiero economico unico di matrice nordamericana che sta entrando ormai in tutto il mondo, compresa l'Italia, e ci sta convincendo che c'è un solo modo di fare impresa, un solo modo di fare banca, un solo modo di pensare l'azione del consumatore, dell'imprenditore, eccetera. Invece non è così. Cioè l'Italia ha prodotto nei secoli una sua tradizione economica che ha generato un vero e proprio miracolo economico nel Novecento e che ha insegnato a tutto il mondo a commerciare, a scambiare, a fare contabilità, da Faccioli in poi, certo. Ha inventato il lavoro, perché non dimentichiamoci che senza il monachesimo, soprattutto italiano, il lavoro era ancora una faccenda per schiavi. Cioè l'invenzione del lavoro come dignità umana è tipicamente un'invenzione del monachesimo, come ha detto da Norcia, e tutta la tradizione che ha avuto in Italia il centro, il baricentro. Quindi noi raccontiamo ormai da una quindicina d'anni con Zamagni, in vari modi, in vari libri, che l'economia italiana non è solo, diciamo, vino, cibo, artigianato, bellezza, è anche pensiero economico. Siccome l'hanno chiamata economia civile, gli economisti italiani del Settecento, noi continuiamo a chiamarla così, non economia politica né economia sociale, anche perché c'è un'altra cosa. Cioè, se posso dire una battuta, che l'altro giorno abbiamo avuto qualche settimana fa un incontro con il ministro del lavoro che diceva: ma perché usate parole sempre diverse per complicarci la vita? Una volta parlate di economia sociale, poi altri di cooperativa, altri economia del dono, e voi economia civile. Mettetevi d'accordo e facciamo un'unica espressione, così siamo più forti. Dico io no, perché economia civile dice altre cose. Ad esempio non dice non profit, perché l'economia civile riguarda tutta l'economia, che o è civile o è incivile. Quindi, certo, non è che l'economia civile riguarda un settore che non ha scopo di lucro, o che riguarda l'economia dei servizi alla persona, del welfare, l'economia sociale o l'economia del dono soltanto. No, è uno sguardo su tutta l'economia che, ripeto, o è civile, cosa vuol dire? Costruisce bene comune, posti di lavoro, non inquina, paga stipendi, non va nei paradisi fiscali, quindi è civile, civilizza, o semplicemente è incivile perché va all'opposto di questo. Ecco, ma quindi allora, è un'economia che si inserisce anche sui modelli economici già esistenti, non è che contrasta o condanna i modelli del libero mercato, i modelli fondati appunto sulla libera iniziativa, ma chiede a questi modelli di rispettare la dignità della persona e di rispettare, sì, i fondamenti, i valori umani più profondamente umani. Sì. Cioè l'Italia l'ha inventata l'economia di mercato, lo sappiamo che i primi teorici sono stati francescani, le prime banche sono nate in Italia con i Monti di Pietà, tutto ciò che è la logica di mercato è nata nel Medioevo, tardo Medioevo, prima modernità in Italia e poi nei paesi europei, quindi assolutamente qui c'è un'idea che guarda il mercato con positività, ma lo guarda come un luogo di cooperazione, di mutuo vantaggio, quindi è un altro racconto di cosa sia l'impresa e il mercato, non è che sia alternativo, certo, semplicemente diverso, come dire. Ecco, possiamo dire che non necessariamente la libertà di mercato è capitalismo, la libertà di mercato è iniziativa delle persone più che, sì, iniziativa dei capitali. Cioè noi parliamo di un'economia di mercato che è diversa dall'economia capitalistica, come l'abbiamo immaginato tutto negli ultimi 30 anni di capitalismo finanziario e individualistico. Cioè l'economia civile racconta un'idea di mercato che prima di tutto è cooperazione, cioè non è, diciamo, lotta per vincere, ma il mercato è un grande network cooperativo. Questo noi nel libro ripetiamo mille volte, cioè quando un imprenditore inizia un'attività economica, ma anche pensiamo in piccolo, un giovane mette su un'impresa elettrica e può fare l'elettricista, non è che pensa che devo battere qui a Roma, che devo, cioè quali sono i miei competitor, pensa quali clienti mi posso fare, cioè quali sono i miei con chi posso lavorare per vivere. Cioè l'idea è che il mercato, l'impresa è prima cooperazione. Ti ricordi che esiste anche un mercato che fa i prezzi con cui devi confrontarti, ma ecco, il primo sguardo sull'economia è cooperare con gli altri per un mutuo vantaggio. Quindi un'altra idea di mercato, come dice appunto il sottotitolo di questo libro, farsi un'idea del mulino sull'economia civile. Quindi il mercato è qualcosa che è fondamentale, ma perché è una realizzazione dell'uomo, e quindi l'uomo può correggere e sviluppare il mercato secondo le proprie iniziative, secondo i propri valori. Il secondo libro di cui volevo parlare questa sera con Regino Bruni è Le imprese del patriarca. Si parla sempre di mercato, denaro, relazioni umane, ma nel libro della Genesi. Ora, l'idea che abbiamo, che io ho personalmente anche nel libro della Genesi, è che sia qualcosa di lontano. Insomma, le storie della Genesi in fondo sono storie. Che attinenza hanno con la realtà attuale, Regino Bruni? Ma hanno un'attinenza che hanno i grandi racconti fondativi dell'Occidente e quindi del mondo. Cioè il libro della Genesi ha ispirato, vorrei dire, decine di migliaia di azioni, di artisti, anche azioni economiche nel corso della storia, ha ispirato la vita. E quindi io a un certo punto ho sentito la spinta dentro di me a dire: ma non dobbiamo oggi riportare questi grandi miti, senso altro nel termine, fondativi della nostra cultura, riportarli in mezzo alla vita economica, nelle imprese, nelle banche, nelle piazze, perché sono nati così. Cioè io ero preoccupato di una Bibbia confinata solo nel culto e dentro le chiese, perché così muore, perché manca l'aria delle piazze e della città. Quindi anche come mio contributo, perché mi occupo anche da diversi anni di letture bibliche, eccetera, ho detto voglio tentare di raccontare da economista significato culturale, antropologico e quindi civile di questi grandi racconti biblici. E circa 6 mesi ho lavorato a questo testo, ho commentato tutti i capitoli del libro della Genesi, per capirci dalla creazione, dall'Eden, da Adamo ed Eva fino a Giuseppe l'Egiziano, che è uno dei primi teorici del ciclo economico delle 7 vacche magre e 7 vacche grasse in Egitto, e che l'ho raccontato con grande rispetto dei testi, perché appunto sono testi molto complessi e molto anche molto ricchi e difficili, sì, ma con il desiderio, che spero sia riuscito, di riportare a delle lettori laici, magari, che non sono esperti di religione, ma far risentire il gusto profondo di questi antichi miti sull'uomo e sulla vita in comune. La prima volta che compare la parola mercato è quando Abramo compra dagli Ittiti una tomba per la moglie Sara. Il profitto fa il suo esordio nell'episodio in cui Giuseppe viene venduto dai fratelli. In fondo queste realtà, che sono realtà quotidiane, sono nate, nascono appunto con la civiltà, nascono con l'umanità, che è rappresentata anche da questi libri della Genesi, che forse in questo modo possono essere anche riletti con una certa attualità. In fondo l'uomo non è cambiato, è sempre l'uomo con le sue esigenze, con i suoi valori, ma anche con le sue fragilità. Luigino Bruni. Sì, è così. Cioè io ho cercato di riportare queste categorie che oggi sono anche abusate, le abbiamo logorate, le abbiamo perso il significato originale di alcune parole grandi dell'economia, come profitto, come mercato, come contratto, le ho voluto riportare alla loro genesi, quando sorgono nell'Occidente, e vedere che appunto il primo contratto nella Bibbia c'è quando Abramo compra una tomba, che è l'unica proprietà che avrà nella terra promessa. È interessante che Abramo lascia tutto per andare in una terra promessa e in vita c'è solo una tomba di proprietà, e rimane esule e immigrato tutta la vita in una terra di altri. Vedere appunto il profitto, dove nasce il profitto? Per vendere un fratello si parla di profitto, e quindi questo è un rapporto tra fraternità e contratto, tra fraternità e profitto, poi sono le categorie fondamentali per l'oggi. Quindi io cerco di prendere spunto da alcuni grandi racconti per raccontare l'oggi, non per fare archeologia di categorie antiche soltanto, ma tornare al momento sorgivo, alla fase iniziale di categorie fondamentali per l'oggi. Ecco, in questo senso appunto la Genesi non è... In questo senso la Genesi non è solo la creazione, appunto i sette giorni in cui al settimo giorno Dio si riposò, ma anche tutte le storie legate appunto alla nascita della civiltà, in fondo una nascita della civiltà in cui molto spesso compaiono forse più gli elementi negativi, ma compaiono anche tanti elementi positivi. Come valorizzare questi elementi positivi, allora, anche partendo dalla storia dell'uomo, Luigino Bruni? Ma valorizzarli perché ci sono nella Genesi dei passaggi delle ispirazioni per l'oggi straordinarie. Pensiamo al tema della Torre di Babele, no? Che si incontra presto nella Genesi, viene sempre presentata come la dispersione, la punizione che Dio fa agli uomini che avevano costruito una torre troppo alta, l'ambizione, l'orgoglio, ma non è così. In realtà uno studio attento del testo fa vedere che il vero errore degli uomini di Babele fu il non disperdersi del mondo, ma dopo il diluvio fermarsi, chiudersi in una comunità chiusa, che è l'antico problema del comunitarismo. Cioè, dopo le prove, dopo le difficoltà, le comunità si chiudono nei confini e hanno paura di disperdersi verso il diverso, che è il grande tema di oggi. Pensiamo al tema dell'Europa, agli immigrati. Cioè, dopo le crisi, dopo i diluvi, la gente tende ad aver paura della diversità, quindi si chiude nelle torri che sono appunto i paesi, i confini, e certo, non si apre e non si disperde e non si salva per dispersione nel mondo, no? Per fare un esempio, diciamo, che è straordinario, cioè questo invito a uscire, a mescolarsi alla biodiversità, alla promiscuità come salvezza. Cioè, le chiusure non salvano mai. Ecco, come un altro elemento che compare nel libro, non abbiamo tempo di approfondirlo, è per esempio quello dei prezzi. E scrive: il mondo ha sempre sofferto per prezzi troppo alti che hanno escluso dal possesso di beni importanti moltitudini di poveri, ma il nostro capitalismo oggi soffre anche per prezzi troppo bassi, materie prime o cibo scambiati a un prezzo minore del valore di un piatto di lenticchie. Qui torna la Genesi. Grazie a Luigino Bruni di essere stato con noi, direttore. Abbiamo parlato di due libri, il primo scritto da Luigino Bruni e Stefano Zamagni sull'economia civile, della collana Farsi un'idea del mulino, sono 144 pagine per 11 euro. Il secondo, Le imprese del patriarca, delle edizioni Deoniane di Bologna, mercato, denaro e relazioni umane nel libro della Genesi, 184 pagine per 16 euro. Grazie a Luigino Bruni, grazie a Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.